legge? E come mai così basso? Cioè, relativamente basso, sì, Santiago 7,5, dai. E anche 8, dai. È buono il segnale, dai, comunque. E ancora, ma io sto cucinando la pasta. 10 minuti di cottura e poi il sugo. Ehi, abbiamo fatto una lunga riposata oggi. Lungo bisolino, per modo di dire, mamma, io stavo facendo roba. E quindi stiamo mangiando fra poco, dai. Vabbè, purtroppo. Eia. Vabbè, poi la cena a mezzanotte, ah? Razza di orari. Il bello che noi siamo abituati, per noi è la normalità. Questa è un'abitudine. Ma chi stai aspettando, la 50? Ok. E che sport fa? Ah, calcio? No, credo. Che ne so, karate, cose, boh, qualsiasi cosa. E qualsiasi sport è buono purché sia, purché si faccia. Io vedi, non ho voluto mai fare sport e adesso la sto pagando cara. Eia, adesso ho guardato bene, ogni tanto si muove appena appena, 8,5 quasi, potrei dire 8,5 il segnale, quindi è di lusso, dai. Io intendevo basso rispetto al segnale di casa, dai. E lo fa, lo fa. Uia. 10 minuti di cottura, riesci a vedere? 3 minuti sono passati ancora. Ah, come diceva mio zio, un'ora di cottura, capito? E poi raccolto. No, no, no, lui beveva e boh. Mangiava vino, mangiava, capito? Già l'ha lasciato la moglie, poi gliel'ha mangiato tutto e poi l'ha lasciato. Come ti l'ha visto, l'ha trattato me? Beh, colpa sua, ma non da adulto, da ragazzo me. Da ragazzo ha iniziato a frequentare questi bar di perdi tempo. Capito? E poi, capito, sempre con la tazza in mano e poi i risultati sono visti. Perciò io non posso vedere tanto i bar. Io consumo, ma posso pigliare caffetteria, posso pigliare una bibita, un bitter, una spremuta di arancia. E poi me ne vado, però non sto tutto il giorno lì, come succede qua vicino. Eia, adesso vediamo se entra qualcuno. Oggi, cioè in questi giorni stiamo battendo fiacca, mi. E vabbè. Guarda, ieri, hai visto il caldo di ieri? Sicuramente Platamona l'hanno presa d'assalto. Oh, alla rotonda. Bene, dai, 8, già sentiamo dopo, dai. Io giro la pasta e poi la condisco. Ci sentiamo più tardi, ok? Ciao, Otto, ciao. Buona serata. Ciao, ciao. Maria. Bobo Gnabulotto. Oh, Maria. Non ho sentito ancora. Caspita. Oh, Iulia. Sono Andreoli, già vedi, dica, aspetta, ragazzi, tu deve essere in bicicletta, deve passare. La bicicletta, verrà via in macchina, verrà via, ero a San Giovanni. Ai campi, accompagnata da Menibudi, e stavo parlando da lì, poi cosa, Marco Sarrado, stavo sempre già meno, boh. No, ho acceso nemmeno 5 minuti, ho acceso, non c'ero, ero in campagna, dice che sono salito un po' campi, va. Così è, e nel PMR c'è il signor Sant'Antonio. Oh, cazzo, l'UBMR già la segue, ma la bicicletta non la gana, dito. Adesso che ci siamo tutti in chiesa, Gianni. La salufa, la salufa, la salufare, hai dormiati, no? Chi si ribiati? Chi stanno ribiati la frequenza? Non ribiati. A me mi sa che piace più vita che chi sa lui. Il macchino la sente allora, se ribiati più vita. E invece chi c'è non la sente, la sente chi tu. La poi se la mette a chi non vede nessuno. Senta. Oh, ya, yeah. Per carità. Bacchisio, non si è sentito. Se dovrebbe entrare adesso, sì, entra. So, non lo so. A me mi pare che sia la cosa. E Gidu, non c'è mai nessuno. Cosa entra a fare in Gidu, non lo so. Ha giudicato che percorso per Luca Montanaro e Vedu. Sono tutti e due. Me la va e fa vedere, me. Oh. Sari fare il bacca, oddio, in manicana. andate così, andate, ma vai, si arrende me. Hai arriva che mi ha saltato. Ero fa vedere con Marco stasera, ero fa vedere dalla macchina, da voi, ha chiuso che devi andare a mangiare. Sono qua. Guarda, non ricordo più. Tanto già ricordo a lui. Evidentemente ha già frazzato, già cerato e anzi frazzato. Il gelato, il dolce l'ha già trovato già Marco, buonasera. Marco! Non mi risponde, non mi sente. Se si mangia in rodotti. Marco! Ciao Gian Marchi, buonasera, che altro che andiamo via, andiamo. Cos'è? Lo vento di Narregato. Buonasera Gian Maria, buonasera a te, buonasera anche a Marco. Lo vento mi si è fatto così, vento, vento. Se non c'è vento non c'è nulla, avanti Tore. Ehi, andiamo, andiamo. Io già sono ai campi San Giovanni, va un vento in chivi, certo. È bello pure era. Sento in campagna, vento, super vento. Anda a me, avanti San Marino. Ehi, campagna, vento, c'era boh. Sta a me per un caso la crema. Cosa posso fuggire? Cosa posso fuggire? Perché non ve la faccio più. Cazzo, mi dico mo sta morto sta fa. Mi fa la posso da cazzari. Ah, ti ho mollato tutto e mi sono cazzato. Hai vinto tu, ho vinto la moto zappa allora. Ma chi è, gatta? Prima c'era un pezzo da tagliare l'erba, un gradone che ci avevo. E ci ho messo poco, l'ho finito. E ho detto vai, è preso ancora. E ho messo in marcia molto coltivatore, ho fatto una zappare. Ma un'oretta così, ho dovuto mollare tutto perché era tutto un bagno. E non aveva più gara, un dolore il gioco. Sbaglia da tutta io, allora non mi taglio più a chi non si ne più, così che se ho tagliato, ne ho molto zappato quasi la metà pure, capito? Adesso l'altra sera ci scendo, però se scendo, scendo verso le 4, perché dopo pranzo c'è caldo ancora, invece dopo le 4 comincia a rinfrescare, allora lo termino, capito? E boh, se ne parla a ottobre, novembre, se ne parla dopo, ma è tutto pulito adesso, dai. Anche io qua mi la devo tagliare tra poco, anche qua la devono tagliare. Taglia la tua, taglia, non c'è da fare niente, poi il comune ti dà la medaglia. Ah, non so io che devo baciare, no, tra poco la taglia in Oghiburu, li ho visti con il trattore stamattina a quella parte là, quindi stiamo passando anche qua. Fai tu, è meglio, perché il comune ti dà la medaglia. La medaglia di Daggi, infatti mi ha dato la medaglia, mi ha rivitto la bulletta da Dacia Mondessa. Sì, che cosa di moto vuoi? Capito, sono io, già mi hai dato l'aumento da Dacia Mondessa e mi è contento. Infatti, anche a noi è arrivata, anche a noi è arrivata, visto che... Allora, ma mi sembra che il trio che arriva quasi a tutti adesso, E poco sono salate mi. Boh. Non lo so io. Paga, paga tu. Dali i soldi a me, a te la pago io, tu, ti preoccupare, dai. Sì, caspita. Tutto per chi si gani, chi non viene da Gosu. Lavora la lampada mondessa, è tutto bagissimo, si aumenta. È un macello, è un un macello, a pagare e basta. La bacia è situata, la ciabatta di ribiglia di subito, bacchi, boh, cazzo, gli avevo sudato per poter pagare e non stava a niente. Bisogna fare come si fa se anche se è lungo, il sindaco, per il via dicendo, non pagare nulla, o fatti conto, la farina è vabbè, loro lo fanno, lo possono fare, noi non ce la facciamo perché la questione arriva più seria la questione a noi, capito? Allora cosa ne li pigliano a loro? Ma chi? Certo, non li pigliano niente, ma se no chi li piglia chi sta rullotto, chi si cazza rivecce, che fanno? Mentre che noi invece ma lasciamo per girare, per carità, non si può fare niente, no, devi pagare il muro e chi è c'è cagliato? C'è proteggiato, c'è proteggiato per un momento, capito? E intanto non so come faccio, la dice, ce le dite, mi stai facendo per male, intanto non è pago, faccio male, la dite, non dire che mi stai facendo per male, fate la roccia, avanti, to, Tore, si è controllato a vedere che c'è arrivata, ma stavo non abbaitando, abbaita che hanno andato la boccia a pagarla. Sì, no, sono andato, ho sentito la porta, invece no, non c'era nessuno. Addirittura, certo, è una cosa strana, eh. No, mi è sembrato che avessero suonato, invece non ha suonato nessuno. Il sole c'è sempre piena, per carità. E poi forse che andavo a pagare tu, che andavo a pagare invece per la fila, sto questa un'ora e più. Io sono entrato stamattina alle poste, sono stato 10 minuti e sono andato via subito. Se ci manca qualcosa, non te ne vado nel muro, la produce di qualcosa, da poi mi ho fatto una salata e vado da Recolo. E siccome siamo stati arretrati, avevo scalato. Oh, in campagna devo fare una telefonata, mi mancava un centesimo, a 6 euro era 5,59 euro. Stavo un centesimo e non volevo trovare una telefonata. Sì, ed è così, non te ne fanno fare, te lo chiudono, vengo preso. Fa un centesimo di rosarra. Sono delinquenti, no, perché adesso non c'hanno 5 euro appoggiati lì, e sono lì. Perché per un centesimo non avevo trovato la telefonata? Sono una massa di delinquenti, già. E dare è buono. Sì, me lo fanno anche a me un sacco di volte, me lo fanno anche a me. Sì, secondo come ti biglio, mi girano le cattori, me lo giambo. Poi ho cambiato, adesso è andato da una cosa, da volo, ho tornato quindi, quindi è preso di volo, in campagna non c'è segnale, devi indicare un punto per fare il telefonato. Prende in campagna, vuol dire che sei in zona neutra per loro. In campagna è un minimo, anda. Vuol dire che secondo come è messo il ripetitore non ti prende, ma da me prende in tutte le parti, prende. C'hai Windy, c'hai? Io c'ho Windy, l'hai visto in campagna tua, prende lo stesso, prende anche dal telefono mio molte volte. Io non c'ho nulla, poi tu ti ribatti, sopra la vettura parlavo, dentro l'apparato parlavo, qui si usa là, e gente, e io gioco un bicchiere invece di giamballo con coso, con le poste, con quello delle poste. Le poste, non lo so come sia. Perché prima c'erano i tini, andavano bene. Poi quando ho comprato il telefono nuovo c'era la scheda Vodafone, non c'era la scheda Vodafone. Poi quello della tini, l'ho passato a Vodafone, e via lui Vodafone. Adesso io uno Vodafone e uno Wendy. Wendy non costa terra. No, dipende. non dipende dalla scheda, dipende dal telefono, Bacchi, perché quello che ho io prende in tutti i posti, prende. Il telefono, gatto. In campagna pure, secondo dove sono, non prende. Io avevo prima quello con l'antennino, quello l'antennino fine fine, i primi che sono usciti, con quello prendevo dappertutto. Invece questo, sempre della Vodafone, adesso in qualche punto lo prende, però la maggior parte prende, dai. È l'unica è la Vodafone. Certe volte capita anche da telefonino pure, capito? Però io sto da Vodafone, sono tranquillo, già prende, dai. Ma c'è lo è. Io ho anche quello di casa della foto. Ho fatto il contratto per 3 anni. All'anno prossimo mi dovrebbe scadere e me lo tocco completamente perché non lo uso, capito? Uso poco e niente. Tanto noi abbiamo i telefonini, io e lei. Qui siamo sempre i telefonini, quello di casa è una rottura, ogni tanto c'è i telefonenti, due per questo, per quell'altro, ma se non si bimbo, ma manco 20 telefonati a radio e più, per cazzate, cazzo, si rompono i cazzo, allora, come c'è bisogno di contratto, il cazzo, boh, non ne voglio più in casa al telefono, solo col telefonino, boh. Queste voci di troppo che abbiamo fatto, bisogna attaccare il telefono e basta, quando c'è gente uscita, bisogna attaccare e basta. Sì. Torna, non succede di queste cose, cara. Ma io ne ho aggiungato il telefono, ho trovato un nuovo contratto e ne ho aggiungato, c'ho soltanto la linea per internet e basta. Ah, No, io internet non ce l'ho sul telefono di fu, già ce l'ho sul telefonino, internet, capito? E per cui, per i computer ce l'ho, già ce l'ho, pago 10 euro al mese e ce l'ho a posto. Vabbè, anch'io ce l'ho sul telefonino, ma questo è di casa che uso il computer grande, uso e altre cose, quindi c'ho solo quello lì e boh. Ce l'ho separato, sì, quello per il computer, capito? C'è sempre lavoro. Pago 10 euro, 10 euro al mese, pago lo stesso, anche lì, capito? Sì, andate così, andate. Allora, già va bene. Dove prendo, signor Bacchini? Io riprendo, vi saluto, sono in QRT perché ora deve fastidio. Ciao Cole, salutissimi, grazie della piccola chiacchierata, anche a Gian Maria, grazie a Gian Maria, della poche parole ci abbiamo scambiato, vi auguro ancora buon consiglio, sono stati riusciti i QRA familiari e se tutto coincide ci sentiamo domani. Ciao ciao a tutti, una buona sera da Battisti. Andate Bacchi, ci sentiamo alle prossime, ok, a domani se coincide. Andate, ti prendi Gio Mari. Ok, ciao, chiamo il signor Bacchi, allora, buon proseguimento di salata, saluto in casa, Bacchi. A domani, grazie per essere entrato. Ci sentiamo domani, Bacchi, se Dio vuole, ciao. Ciao Bacchi. È così, io sto. No, no, non è entrato più. Ah, boh, non è gioco. Siamo sempre noi che entriamo qualche volta, qualcuno va fuori. Boh, il tracco gioco. Sembra così, no. Alle 2.20 sono sceso in campagna e mi sono messo con questo spugliatore, c'era il gradone, un gradone da tagliare l'erba. Poi c'era caldo, però lo dovevo fare perché se mi dava fastidio, tutto il resto era fatto, c'era quello lì. Invece adesso l'ho tagliato, già ho sudato, e non mi sono già fatto pure quel pezzo. Dico, mi faceva la macchia in rene all'ultimo, alle 5 qualcosa, mi sono ciuffato, nemmeno pulito l'ho infilato dentro nei garage che è mollato tutto, mi sono salito, appena sono cazzato mi sono dormito, sono braurito. E mi è poco fa quando hai chiamato tu me ne stavo alzando. È fatto bene, è lì quando comincia così, bisogna mollare e andarsi. Vai fatti, no, non conviene più accendere così presto, capito? Conviene dopo la sera tardi, capito? Al fresco. Perché se no, già che c'è rimasto un pezzo da fare, a molto zappare, però quello molto zappo. Un giorno che c'è fresco scendo e me lo pulisco. Il resto è tutto pulito, tranquillo e appena che finisco quello pezzo di molto zappare, poi non faccio più niente in estate. Quando scendo mi siedo nella veranda lì con qualche bottiglia d'acqua fresca e mi riposo al fresco, che si sa bene in campagna, aria pura. Al fresco bisogna scendere e stare lì al fresco fino a una certa ora, dopo i burrassi. E poi un caso, grazie, non c'avevo nemmeno acqua fresca, perché io la corrente la distacco quando me ne vado, che non ha rinfrescato l'acqua, no? Capito? Così che era un poco gas. Alla prossima volta la bottiglia me la porto da casa almeno, perché tanto tu attacchi la corrente, qua da rinfrescare l'acqua ci passo un'ora e mezza e se no non la puoi bere, capito? Infatti bisogna fare così, bisogna fare, passi una bottiglia almeno, una o due bottiglie fresche. Anche se ne mancherebbe a breve, facciamo i bottini. Infatti, perché prima lo lasciava acceso il frigorifero, ma adesso no. Anche siccome ci scendo poco, per cui la corrente la distacco, capito? Sicché me la porto da qua, quando scendo me la porto qua fresca e sono freddo. Magari se scendo la mattina, allora già la metto in freezer e la bottiglia in una mezz'oretta se la ghiaccia, capito? Ma se no me la porto da qua. Fai bene, vabbè, dai, a me mi giaccia meglio, ok Giomari. Ci sentiamo domani, alle prossime, ok, ciao. D'accordo, ci sentiamo, vai, buon proseguimento, saluto in casa e buona cena, vai. A domani, se coincide, ciao. Ciao Giomari.